Letture di Radio 24. La leggenda del morto contento, ultimo romanzo di Andrea Vitali, parte da un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1843. In una giornata ventosa, due giovani di buona famiglia si avventurano tra le acque del lago di Como, quando per una distrazione la loro barca si rovescia. Testimone impotente della tragedia, il sarto del paese. Lepido Bernasconi era nato a Brissago, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, il 14 novembre 1816. Era una notte di vento quando venne al mondo. Il lago bianco di spuma, nell'aria i suoi gemiti mischiati con quelli della madre. Non era stata una gravidanza facile e nemmeno il parto s'era presentato tale, anzi, distocico innanzitutto. A causa delle maldestre manovre della levatrice, che per tenersi in forze aveva abusato di un liquorino alle erbe alpine, il naso del bambino s'era malamente piegato di lato e così sarebbe rimasto, nonostante svariati tentativi, tanto dolorosi quanto inutili, perpetrati negli anni successivi per raddrizzarlo. Nel momento in cui Lepido aveva visto la luce, il vento che soffiava sul lago era riuscito a spalancare una finestra. La levatrice aveva raccontato di aver visto con i suoi occhi una specie di mano, quasi un'onda lattescente, entrare nella camera e dopo un breve giro uscire sempre dalla stessa finestra. Certo, non le si poteva dare un gran credito, vista l'affezione che aveva dimostrato verso il liquorino. Sta di fatto però che la scuffia di vento aveva gelato l'aria del locale e il povero Lepido ne aveva rimediato una polmonite che per 2 settimane l'aveva tenuto in pericolo di vita. Era scampato e per anni sua madre gli aveva raccontato quasi tutte le sere la favoletta del vento curioso, di vedere come nascevano i bambini per andarlo poi a raccontare alle acque dei laghi e dei fiumi. Lepido aveva creduto alla storiella sino al giorno in cui aveva preso coscienza della stranezza che dava al suo viso quel naso rincagnato e deviato di lato. Sulle prime aveva creduto a un difetto dello specchio, quindi si era proposto a tutti quelli che c'erano in casa, non molti, 3, compreso il frammento davanti al quale suo padre si sbarbava, e da tutti aveva avuto l'analogo responso. In seguito, a precipitare le cose, erano venute le burle dei coetanei che l'avevano battezzato con un soprannome, Gnuff, che ben presto anche gli adulti avevano adottato. Era perfetto per quel viso da eterno insoddisfatto. Come tutti i sensibili d'animo, Lepido ne aveva patito e aveva reagito dapprima isolandosi, sfuggendo, nei limiti del possibile, ogni occasione di vita comunitaria. Era stato allora che la sua laconicità aveva messo radici, tanto che il più delle volte il giovane si limitava, per tutta risposta alle domande che gli ponevano, a gesti di assenso o di diniego. Poi, grandicello, attorno ai 15 anni, aveva cominciato a sublimare il dolore distillando da esso la forza di volontà per diventare, da grande, un uomo d'importanza davanti al quale la gente si sarebbe inchinata o comunque avrebbe considerato irrisorio quel naso da cane povero a fronte della qualità del suo intelletto. Scienziato, ecco, s'era detto Lepido. Poi, stabilito il suo destino, aveva vagliato i vari campi in cui la scienza si applicava e infine aveva deciso di assumere come profezia sul proprio futuro quel vento che l'aveva spiato nascere. I misteri e i segreti del tempo, la meteorologia, sarebbero state le sue armi per vendicarsi dell'iniquo destino. Uno sberlotto di suo padre e il castello di speranze era miseramente caduto al suolo, come sotto un colpo di vento. Uno sberlotto non cattivo, nemmeno violento. Uno sberlotto in cui Lepido aveva letto la pietà del genitore, la convinzione che con quella faccia, che sembrava sempre sul punto di annunciare una carognata, per lui sarebbe stato meglio stare il più nascosto possibile e lasciare ad altri vendette e rivincite. Anzi, gli aveva spiegato il genitore, dopo aver ascoltato i suoi progetti, poteva considerarsi ben fortunato di avere un padre sarto e dunque un mestiere già bello e pronto sotto mano, perché non gli sarebbe stato facile trovarlo. Quindi gli aveva dato il benevolo sberlotto e gli aveva comunicato che dal giorno seguente lo voleva con lui, apprendista sarto. I primi anni di bottega, dai 15 sino quasi ai 20, Lepido aveva dovuto accontentarsi di guadagnarsi la pagnotta, secondo quanto aveva deciso il genitore. In buona sostanza lavorava, e soprattutto sosteneva quotidianamente il genitore. Imparava a gratis, senza necessità di favorire al datore di lavoro omaggi di varia natura per ringraziarselo e ringraziarlo degli insegnamenti, per avere diritto a pranzo e cena. Stando così le cose, il lavoro gli risultava vieppiù gravoso. Pure, con un encomiabile senso del dovere, aveva continuato a imparare, impratichendosi sempre di più nell'arte, al punto che il genitore, conscio della sua abilità e temendo di vederselo sottrarre con la lusinga di un guadagno che avesse non solo la musica delle promesse, aveva cominciato ad allungargli qualche doblone. «Per i tuoi vizi», gli aveva detto la sera della prima largizione. Lepido vizi non ne aveva, ma quelle 4 monete in tasca gli avevano dato una certa sicurezza. Se l'era giocata in mano, ascoltandone la tintillante musichetta. Se c'era chi, col decuplo di quella sinfonia, poteva comperare il mondo, lui, con lo scudo di quelle poche note, avrebbe potuto condire la libertà delle domeniche e delle feste comandate. Darsi ai dintorni, esplorare il luogo dove era nato, senza paura di morire per disidratazione, visto che adesso il soldo per pagarsi un'acqua gassosa lo aveva. O, in caso di fame, un pezzo di pane con qualcosa dentro in uno dei tanti crotti del Ticino. Dapprima erano stati i dintorni di Brissago, i territori delle sue esplorazioni. Il Monte Gridone, soprattutto, dove aveva passato giornate intere a scrutare il cielo, seguendo l'invisibile amico che spingeva le nubi, osservando le acque sottostanti e prendendo mentalmente nota di ogni fenomeno, dalle macchie di colore che segnalavano le buche profonde, alle strisce delle correnti, ai mulinelli dei terremoti subacquei. Ma fu nell'estate 1839 che Lepido visse la più grande avventura della sua vita. Suo padre era morto da poco più di un mese. Difertite tardiva l'aveva definita il medico, contro la quale nulla aveva potuto, nemmeno il rimedio del farmacista comasco dottor Cappelletta, un'acqua di Sels accoppiata alla salsa pariglia, pianta nota anche col nome volgare di stracciabraghe, per le virtù afrodisiache, che s'era dimostrata molto efficace nel combattere reumi, mal di gola e, appunto, difteriti. La scomparsa del genitore aveva lasciato in Lepido un doloroso sgomento. Poteva un padre, così, di punto in bianco, piantare lì la vita e andarsene all'altro mondo? Gli ordini adesso, chi glieli avrebbe dati? Lui era abituato a obbedire. Di come si facesse a comandare, non aveva la più pallida idea. L'aveva chiesto al genitore morente, ma quello, con un fiato caldo, l'ultimo, gli aveva sussurrato «Adesso tocca a te», dandogli a mo' di viatico un debole sberlotto. Pure sua madre era rimasta intronata dalla morte del marito. Anche lei, forse, lo immaginava eterno. Per un mese i due non avevano fatto altro che guardarsi negli occhi, scambiandosi poche parole e men che meno pensieri. Entrambi aspettavano una voce. La donna, quella del marito che chiamava. Lepido, quella del genitore che ordinava. Il giovane sapeva che nessuna voce viene dispersa, nessuna parola detta muore. Danza piuttosto tra terra e cielo, ma serve l'orecchio giusto per ascoltarla. Lui ce l'aveva, l'orecchio. Era stato per quello che un bel sabato nell'estate 1839, lasciata la madre a casa guardata a vista da una vicina, era partito per Mendrisio. Aveva passato la notte presso l'ostello di San Nicolao, che prendeva il nome dall'omonima rupe. La mattina, animato da un'insolita fantasia, senza cavallo, senza guida, come pure gli avevano consigliato la sera precedente, era partito per il Monte Generoso. Sin dai primi passi aveva avuto l'impressione di essere seguito, osservato. Un'impressione forse dovuta al fatto che così lontano da casa e per così tanto tempo non si era mai spinto. Ogni passo, anziché sottrargliela, sembrava fornirgli energia. Giunto sulla vetta, gli era apparsa l'estenuante vista di fiumi e laghi della Svizzera, del Piemonte, della Lombardia. Di fronte all'ineffabile bellezza di ciò che aveva sotto gli occhi, aveva mormorato parole di riconoscenza per il destino che, pur non sempre benevolo, l'aveva condotto a vivere quella giornata. Sopraffatto dalla magnificenza del panorama, l'aveva guardato a lungo e poi ascoltato. Era stato allora che s'era confermata in lui l'idea che nessuna parola, nessun suono, nessun richiamo andasse disperso, che esistevano anche altri linguaggi oltre a quello che lui, appena poteva, evitava di usare. «Niente accade per caso», s'era detto, «né in cielo, tra i venti e le nuvole, né sulla terra, nelle acque. C'erano regole misteriose che aspettavano solo di essere comprese, una musica di sfere che non aveva nulla a che fare con l'umano. Le ore di quella domenica erano volate via lievi come le nuvole che attraversavano il cielo. Prima di riprendere la via del ritorno, Lepido s'era prefigurato decine, centinaia di passeggiate, di incanti come quello. Non poteva immaginare che quella sua prima salita sul Monte Generoso sarebbe stata anche l'ultima. Avete ascoltato la lettura di un brano dal libro di Andrea Vitali, La leggenda del morto contento, Garzanti Editore, 240 pagine, 18,60 euro.